Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Gioia, gioia, lo vinti, lo vinti, lo vinti, piglia la pioggia, lo uccidi, lo uccidi. Oh! Te picchiare la femmineggia, gitto gitto in ciallo cori, e chiancia di dolori, ai ai. Cosa c'entra Domenico Modugno con il cacciatore di libri e con i libri? Se c'entra tantissimo, almeno con il titolo di questo romanzo che si intitola La pesca dello spada, come appunto più o meno la canzone di Modugno, Lupisci Spada. L'ha scritto Eugenio Tornaghi, pubblicato da 900 Editore. Questo è un giallo di quelli che, vi assicuro, vi prendono non solo pagina dopo pagina, ma proprio si ha voglia di arrivare alla fine per capire che cosa è realmente successo. Allora, La pesca dello spada è un romanzo poliziesco, un giallo, insomma, di quelli classici, ambientati però nel mondo della finanza, dell'alta finanza milanese. Vi preciso subito, si capisce tutto, anche se non siete esperti di finanza, non vi preoccupate. Eugenio Tornaghi, infatti, l'autore, tra l'altro un dirigente di un grande gruppo bancario, lo possiamo dichiarare, non è affare segreto, vero Tornaghi? No. È una cosa nota al pubblico. È una professione che svolgo alla luce del sole, sì. Tra l'altro questo non è il tuo primo romanzo, però insomma questo è quello di cui stiamo parlando adesso. Allora, dicevamo, questo è ambientato nel mondo finanziario milanese. Tutto inizia quando un banchiere che si chiama Mona, di cognome, e ora capisco che tutti i veneti avranno un attimo un brivido dentro di sé, però così si chiama, così l'ha voluto chiamare, viene misteriosamente ucciso proprio all'interno di questa grande banca nel centro di Milano. Come ti è nata l'idea di far così, di far ammazzare un banchiere? No, l'idea non è tanto di far ammazzare un banchiere, quanto è di fare un giallo sulla banca. Perché? Perché un giallo è un gioco, è un modo in cui, attraverso il quale l'autore sfida il lettore a scoprire per primo chi è l'assassino. Quindi un morto ci serve. Considerato anche i tempi che corrono, mi è sembrato simpatico far morire il banchiere. Beh sì, è un periodo in cui le banche non sono particolarmente amate, ecco. L'idea era quella di, attraverso il gioco del giallo, spiegare come funzionano le banche ai lettori, senza farli annoiare. E per questo che le parole che hai detto prima mi piacevano moltissimo, nel senso che quello a cui tengo particolarmente che sia un romanzo, quindi qualcosa che è piacevole leggere. È piacevole leggere e guida il lettore non tanto attraverso l'alta finanza è più un tema di fondi di investimento, di mercati borsistici, eccetera. No, queste sono proprio le banche. Sì, qua è proprio il mondo della banca, infatti, che devo dire anche chi non lo conosce in modo approfondito riesce a seguirlo, perché chi segue questa indagine è il commissario Libero Cattaneo, che anche lui, poverino, non ne sa molto di banche, quindi hai trovato un escamotage narrativo, hai fatto in modo, cioè, che lui si rivolgesse a diversi esperti del settore per capire come funzionano questi meccanismi bancari. Bravissima, è proprio così, nel senso che il commissario Libero Cattaneo l'ho voluto più che ignorante in tema di banche, quindi lui non solo non sa, ma neanche vorrebbe sapere. È costretto. Si trova un po' per caso su sì, questa indagine. È costretto dal lavoro che fa a imparare, perché se non imparerà i meccanismi fondamentali non riuscirà a capire quello che è successo. Rappresenta un po' tutte le persone che io ho incontrato in questi 25 anni che ho speso lavorando per le banche, che normalmente non soltanto non ne sanno niente, ma neanche vorrebbero. Questo è il punto, no? Perché la banca sa di qualcosa di noioso, di qualcosa che faticano a capire, di qualcosa che in ogni caso gli crea un disagio. In realtà, se parliamo di banche commerciali, e queste sono banche commerciali, non c'è niente che non possa essere ridotto alla comprensione di un bambino di 6 anni. Quindi la scommessa è un po' questa, cioè attraverso il commissario Libero Cattaneo, che non solo non sa niente di banche, ma neanche ne vorrebbe sapere, insegnare al lettore, senza annoiarlo, quali sono i meccanismi fondamentali. Infatti io ho imparato un sacco di cose, anche se lavoro a Radio 24, ammetto che non sono un'esperta del funzionamento delle banche, tantomeno dell'alta finanza, e ho capito tante cose. C'è una cosa, per esempio, che mi ha stupito di questo romanzo. Tu descrivi molto bene gli ambienti, per esempio è molto bello all'inizio quando si entra in questo corridoio di questa banca, cioè sembra veramente di stare in quel posto, si capisce che deve essere un luogo arredato alla perfezione con dei quadri di grande valore alle spalle dei banchieri, delle scrivanie dei banchieri. E dicevo, a un certo punto, prima scherzavamo dicendo che le banche non sono particolarmente amate, c'è un punto durante l'indagine di Cattaneo in cui Cattaneo scopre che sono arrivate in realtà tante minacce ai dirigenti di questa banca, e questa è una delle tracce che lui segue. Ma ecco, quanto c'è di reale e quanto c'è di inventato in questo tuo romanzo? Tutto e niente. La trama è inventata. I due omicidi non sono mai esistiti, ovviamente. Per fortuna. Tutto il resto no. Le ambientazioni sono tutte reali, anche se sono mischiate per non rendere riconoscibili i posti, no? Ad esempio, lì si cita un Caravaggio, esiste una banca in Italia, vi sfido a scoprire qual è, che possiede un Caravaggio. I luoghi descritti sono luoghi assolutamente reali, sono luoghi reali e milanesi, mischiati, in modo che non siano più riconoscibili. Gli scandali citati, quando sono citati, con riferimenti a banche che esistono effettivamente, sono fedelmente riprodotti. Ad esempio, è citato l'omicidio Errausen. Errausen fu il presidente di Deutsche Bank e venne effettivamente assassinato nell'89. Quella è tutta una parte del romanzo che si sviluppa intorno al delitto Errausen. Sì. E in altri casi, invece, quando si citano istituzioni inesistenti, ad esempio viene citata una certa Italcredit, il caso è reale. Quindi diciamo, però, che cos'è questa Italcredit, quello che possiamo dire nel tuo romanzo? Italcredit è un istituto bancario che è in gravissima difficoltà e che è oggetto di una potenziale acquisizione da parte di un'altra banca. Quello che Libero Cattaneo scopre, con più o meno sua meraviglia, è che le banche non possono essere lasciate fallire, perché lasciar fallire una banca significa, tra le altre cose, scoprire un vaso di Pandora, aprire un vaso di Pandora. Le conseguenze sarebbero pericolose, destabilizzanti, e quindi si cerca in qualche modo evitare di acquisire una banca che sostanzialmente è fallita. Di fare acquisire da un'altra banca una banca che è sostanzialmente fallita. Qui facciamo un riferimento storico, magari un riferimento alla realtà. Il riferimento storico è il riferimento alla banca privata di Sindona. Sono citate anche quelle vicende lì. È importante ricordarlo, perché poi in realtà in 30 anni non è cambiato niente, quindi in buona sostanza quello che si trova in una banca che è prossima al fallimento sono sempre le stesse cose, quindi prestiti di favore, donazioni a istituzioni che non avrebbero avuto merito di averle, eccetera, eccetera. E questo, come dire, dura da 30 anni, no? Attenzione, questo non vuol dire che tutte le banche sono così. Anche questa cosa qua sarebbe bello sottolinearla, perché in generale la gente parla delle banche come se fossero tante emanazioni di un'unica entità. Non è vero. Bisogna fare i giusti distinguo, sicuramente. Però ecco, il secondo punto che dicevi, quello che è riferito all'attualità invece, perché questo è l'aspetto storico, appunto citi anche il caso Ambrosoli, Sindona. Quello che è riferito all'attualità lo state leggendo, in buona sostanza. Possiamo capire un po' la realtà leggendo il tuo giallo? Ma io penso proprio di sì, cioè io non è che avessi informazioni privilegiate su quello che sarebbe accaduto per le banche del centro, eccetera. Io casomai ho un'attenzione diversa rispetto a, diciamo, l'uomo della strada. Faccio questo mestiere, per cui quando vedo delle cose che non possono esistere in natura, le noto. E se riferito al sistema bancario, queste cose che non possono esistere in natura sono, ad esempio, il fatto che venga garantito agli azionisti di una banca un rendimento costante negli anni a due cifre. È impossibile. Il fatto che una banca accantoni a fondi rischi meno della metà di quello che fanno gli altri, il che potrebbe voler dire che o loro hanno dei dipendenti che sono geniali e non sbagliano mai, oppure c'è qualcosa che si drizzano va le antenne, veramente insomma. Male, no? E avanti di questo passo. Ma ripeto, non è che io abbia informazioni privilegiate, semplicemente ho un'attenzione particolare di uno che fa quel mestiere. Che fa quel mestiere, appunto. Citavamo prima il caso Ambrosoli, anche che tu citi nel romanzo, tra l'altro riportando una lettera bellissima che lui scrisse appunto alla moglie, sapendo insomma di essere nel mirino di chi voleva ammazzarlo. Questo giallo, in questo poliziesco, c'è veramente di tutto. Chiaramente quando parliamo di gialli non possiamo andare troppo nei dettagli della trama, perché se no togliamo il gusto. Possiamo dire che si parla sicuramente della fuga dei capitali all'estero, in Svizzera, che adesso insomma... Infatti adesso è diventato un giallo storico, nel senso che non avviene più, esattamente, che non il segreto bancario, eccetera. Si parla appunto del caso Ambrosoli, si parla anche, c'è la voce che ogni tanto compare di un uomo che sta opportunamente facendo un depistaggio, vuole portare Cattaneo su tutt'altra strada, non vuole far scoprire chi c'è realmente dietro il delitto del banchiere. Questa figura è molto legata all'idea stessa del libro. L'idea stessa del libro a me venne quasi 20 anni fa. quando per i casi della vita, io all'epoca lavoravo per Deutsche Bank, andai a Francoforte, conobbi un po' di persone veramente per caso, tra cui un alto dirigente della banca, il quale mi spiegò chi era stato Alfred Herrhausen. Per me fino a quel momento Alfred Herrhausen era il nome della via dove lavoravo. Ecco, per me prima del tuo libro francamente era uno sconosciuto. Alfred Herrhausen Strasse, io lavoravo lì. E scoprì così che questo signore, Alfred Herrhausen, venne assassinato nell'89, alla fine di novembre, con un'autobomba, e all'epoca la colpa di questo delitto venne attribuita alla RAF, Rotermi Frazione. Se voi oggi andate a controllare su Wikipedia o su qualunque altra fonte di informazione, trovate che è un caso irrisolto. Oggi non esiste un colpevole di questo omicidio. Però sì, ci sono molte ipotesi, mettiamola così. Un sacco di ipotesi. Come in Italia Ustica, mettiamola così, è uno di quei cold case. Assolutamente sì. E quindi, come potete immaginare, c'è chi ha molto lavorato affinché non si sapesse chi aveva ucciso questo banchiere. E quindi ci sono stati depistaggi e c'è stata una volontà precisa di poteri forti per non far scoprire la reale matrice del delitto. Tutti questi ingredienti, tutti questi elementi ci sono in questo romanzo, appunto è La pesca dello spada, come dicevamo, scritto da Eugenio Tornaghi e pubblicato da 900 Editore. È un libro che vi consiglio di leggere. Scherzando, prima di Natale l'avevo consigliato, ho consigliato di regalarlo a tutti gli amici che lavorano in banca e che amano i gialli, perché però in realtà è un giallo che va per tutti, diciamo, chiunque lo può indossare. Soprattutto per chi non lavora in banca, perché l'idea è proprio quella di spiegare cosa si fa in banca. E molto, molto brevemente, quello che è successo adesso con le quattro banche del centro, ci sarà la magistratura, verificherà se ci sono responsabilità, eccetera, eccetera. Però è più difficile rimanere, tra virgolette, fregati se si conosce, se si sa, se il meccanismo impara, e si fiuta che qualcosa non quadra. Assolutamente sì. Quello che dicevo prima, gran parte delle truffe che hanno subito i clienti delle banche sarebbero state evitate se il cliente avesse semplicemente pensato: sai cosa c'è? Babbo Natale non esiste. A me viene in mente Madoff, che fu il grandissimo truffatore degli Stati Uniti, che aveva anche operato, pur in minima parte, attraverso suoi sodali in Italia. Anche lui garantiva un rendimento fisso alle sue obbligazioni. Piove, tira dentro. Sono cascati tantissimi, no? Poi ci fu anche il Madoff dei Parioli, no? Quello che garantiva. Lui era più furbo perché garantiva i VIP, quindi la spiegazione del perché, mentre gli altri soffrivano per rendimenti miserabili, questi invece potessero beneficiare di rendimenti di assoluto interesse, era nel fatto stesso che erano VIP, no? Quindi io sono VIP e di conseguenza posso solo guadagnare a due cifre. Cioè io ho un trattamento privilegiato in quanto VIP anche qui, no? E quindi un certo senso di giustizia nel fatto che poi siano rimasti tra virgolette fregati. Però in buona sostanza sono veramente quattro cose che sono da capire e spero che con questo libro si riesca ad aiutare a capirle per poter ragionare tranquillamente con le persone che lavorano in banca, che fanno un mestiere. Difendersi anche un po'. Io devo dire, ho imparato molte cose dalla pesca dello spada e veramente lo consiglio, perché attraverso un giallo, quindi attraverso una lettura piacevole, accattivante, insomma, si ha voglia di girare pagina dopo pagina, si riesce a capire molto della realtà che sta accadendo appunto in questo periodo. Grazie a Eugenio Tornaghi, La pesca dello spada, 900 Editore. E anche per oggi è tutto, grazie in regia Valeria Bernardi. Vi ricordo che potete sempre seguirmi su Twitter per essere aggiornati sulla puntata del Cacciatore di Libri, e trovate invece tutte le puntate di archivio e il podcast su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.